È come quando hai pagato per vedere un film e dopo 20 minuti capisci che fa schifo e che continuerà a fare schifo. E invece che uscire e riprenderti l'ora e mezza di vita che ti stanno per rubare, rimani seduto lì e dici: ho pagato, me lo bevo fino in fondo questo calice amaro. Che poi non si sa mai, no? Può sempre migliorare. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07, in onda dalla sede di Roma del Sole 24 Ore di Radio 24. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Perché alla fine funziona così, no? Che ciascuno di noi, magari anche non di proposito, però nella vita fa delle promesse. Fa un sacco di promesse. Poi alcuni le fanno e se le dimenticano. Altri le mantengono, altri ancora non le mantengo e non se ne dimenticano più. E iniziamo da piccoli a fare promesse. Di solito i grandi tacitamente ci fanno promettere che a scuola saremo promossi, che in gita faremo i bravi, che non disubbidiremo mai ai genitori, che non fumeremo le sigarette, le canne, che non berremo alcol, che in auto non correremo, che faremo dello sport, che troveremo una persona da sposare e faremo su una bella famiglia, che saremo persone responsabili. E tutti saranno orgogliosi di noi. Poi cresciamo e cambiano i rapporti, ma non l'abitudine alla promessa. Firmiamo contratti, mutui, perché dare solo la parola non basta. Promettiamo di mantenere i figli, di essere fedeli sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Facciamo promesse per prendere tempo, per non dire subito di no, per compiacere, per non ferire qualcuno, per far credere che, guarda, ci sto pensando. O per far capire che non è colpa nostra. La promessa è come una profezia che si autoavvera. Ci obbliga a rispondere di quello che facciamo e di quello che non facciamo, perché solo andando fino in fondo e solo mantenendola otterremo il nostro posto sulla terra. E poi le promesse che abbiamo fatto raggiungono un livello che non sopportiamo più, che quasi ci sovrasta, che guida le nostre scelte, che ci fa fare cose che non avremmo mai fatto. Perché in fondo mantenere la promessa è poi più importante del contenuto stesso di quella promessa. Venire meno equivale a perdere quella parte di sé che gli altri conoscono e che vedono in noi, perché le nostre promesse in fondo dicono chi siamo. Questo però ci obbliga a non deludere nessuno, ad essere sempre all'altezza di ciò che gli altri si aspettano da noi. Nostra moglie si aspetta che in auto conosciamo sempre la strada. Nostro padre che ci laureiamo in tempo. I nostri amici che diciamo sempre la battuta giusto al momento giusto. I colleghi si aspettano che organizziamo la cena di Natale. I nostri compagni di calcetto invece che facciamo gol quando serve. O i nostri figli che facciamo l'imitazione degli animali per giocare con loro quando torniamo a casa, anche se siamo stravolti dalla giornata di lavoro. Ognuno di noi con il tempo e con il proprio carattere o la propria indole fa delle promesse e crea delle aspettative negli altri. Quali sono le attese che vi inchiodano come fossero una condanna? Ecco, io oggi sono qui. E il numero anche da Roma è sempre quello, è 800240024, oppure per mandare un sms 349-238-6666. Non sto parlando di quelle promesse, quelle verbali, oppure quelle scritte, non sto parlando dei contratti ufficiali. Sto parlando proprio di quelle abitudini che uno sviluppa, e solo che gli altri percepiscono, e quindi a un certo punto da te ci si aspetta sempre che tu faccia quella cosa lì, e se non la fai c'è qualcosa che non va. Cos'è? Non stai bene? C'è qualcosa che non va? No, ma puoi raccontarmelo? No, è semplicemente che magari non ho voglia. Non è che tu ti aspetti che io sia sempre divertente, oppure che sia sempre saggio, oppure che dica la cosa giusta al momento giusto, oppure che ti pulisca la casa, oppure che sappia come fare una battuta di tennis al momento giusto. No, può essere che delle volte semplicemente quella roba lì, quell'aspettativa, te la deludo. 800240024. Guardate Luisa ad esempio. Sono la donna dei consigli. Sono la persona saggia, quella che trova sempre la parola giusta per confortare o per dare sferzate in quantità opportuna. Ecco, nei momenti duri consultano me, madre, sorella, amiche, amici. Ho imparato negli anni a dosare il mio coinvolgimento nelle situazioni in cui vengo interpellata e ad accettare con grande serenità e anche con un certo sollievo il fatto che tante volte poi il consiglio non viene seguito. Elisa, tutti si aspettano da me che io sorrida, sempre. Claudia, da me si aspettano la perfezione, l'abnegazione, la pazienza, l'intelligenza e, last but not least, perché c'è gente che parla in inglese ogni tanto, la bella presenza. 800240024. Laura, si aspetta da me che sia sempre disponibile all'aiuto. Stefania, si aspettano che faccia sempre tutto perfetto sul lavoro. Cosa è a casa, tutto deve essere sempre pronto. Va bene, quello è un po' purtroppo il compito e la condanna di tutte le donne. Fabio, io sono quello bravo, quello che riesce in tutto. Dai, fallo tu che per te è facile. Dai, tanto alla fine riesci sempre. Peccato che non si vede la fatica che c'è dietro alle cose che si fanno. Insomma, avete capito di cosa sto parlando. Sono le aspettative che in qualche modo ormai la gente proietta su di noi. Quelle cose che ogni tanto diventano un po' troppo faticose. 349-238-6666. Facciamo un balzo indietro, che in realtà è un balzo in avanti, tra un mese, a quando giovedì 23 giugno 2011, ovviamente, faremo la serata finale live di Io Sono Qui alla Sala Collina della sede del Sole 24 Ore, che ricordo per tutti è a Milano, è in via Monterosa 91. Quindi mi è arrivato un messaggio, mi spiace dover deludere, non mi ricordo come si chiama, che diceva: spero che la serata sia baricentrica, in modo che io possa venirti a vedere da Bari. Ecco, non è troppo baricentrica, è a Milano, però se uno ha voglia di farsi un bel fine settimana a Milano, che fare dei fine settimana a Milano a giugno è una cosa che io consiglio, vengono un po' sottovalutate, la città è deserta, non c'è nessuno, si fanno delle belle passeggiate. Ma non è questa la questione, è che è nata una bagarre per il fatto che non sono ammessi gli animali, non sono ammessi i bambini, questo l'abbiamo già detto purtroppo, i minori sotto i 18 non sono ammessi e non sono ammessi neanche gli animali. E quindi ha scritto Vanna, credo che si chiami, ha pubblicato una foto del suo cane, con l'effetto che solo le foto degli animali sanno fare, ovviamente, con quegli occhi teneri che subito ti fanno lacrimare il cuore, dicendo: e io lui dove lo lascio? Quindi la questione è: se qualcuno non ha intenzione di venire, proprio non ci pensa nemmeno, però è a Milano e ha voglia di tenere sto cane per un'ora e mezza, a portarlo a spasso e dargli qualcosa da mangiare, vada sul profilo Facebook di Vanna oppure su quello del programma Matteo Cacci Io Sono Qui e scriva: te lo tengo io il cane, così te puoi andare a stasera. Vi ricordo che la serata è gratuita, comincia alle 21 e ci saranno più o meno le migliori puntate del programma e non solo, anche qualche cosa in più. Torniamo invece alle aspettative, quelle che diciamo noi abbiamo semplicemente sviluppato e le persone si aspettano da noi. 800 24 00 24, 349 238 6666, perché sto ripercorrendo un pochettino le tappe di questi 9 mesi che ho trascorso e ogni tanto ti rendi conto che ma come? Ma quella cosa che facevi di solito non è più tanto così. Forse qualcuno si ricorda di Simona. Io sì. E molto bene anche. Simona è stata la prima persona che mi ha aiutato quando ho deciso di ricominciare a costruirmi una vita. Era il periodo in cui credevo che avrei dovuto dire sempre solo la verità. E forse qualcosa a lei avrei dovuto invece evitarla. Simona è una donna dalla figura importante, non è una fragilina. Ieri sera sono stato a cena con lei, l'ho invitata io perché mi piace l'idea di tenere vivi i ricordi dei pezzi della mia vita. E secondo me a volte i ricordi si tengono vivi tornando nei posti, rivedendo le persone. Sì, ripetendo un po' le cose che vuoi ricordare. Certo, non è che potessi tornare a casa di Simona a vivere con lei, perché una casa adesso ce l'ho e in più non so se lei mi avrebbe accettato. Però mangiare con lei era una buona via di mezzo. Allora l'ho portata in uno di quei posti che fino ad ora avevo visto solo a Las Vegas. Un all you can eat giapponese, che traduco per mia nonna che sta ascoltando, è una roba dove puoi mangiare tutto quello che vuoi a un prezzo fisso. Questo genere di locali praticamente ti fa pagare un prezzo, che è sempre quello, e poi ti lascia l'opportunità di avvicinarti al buffet e fare il pieno tutte le volte che vuoi. E se ti va, puoi anche ordinare qualcosa alla carta, però la prerogativa è quella, che tu puoi prendere tutto quello che vuoi. Che non è nemmeno una cosa stranissima, se ci pensiamo, perché in fondo nelle trattorie a menù a prezzo fisso, ad esempio, tu puoi chiedere il bis, e non è che te lo facciano pagare. O ai matrimoni anche, no? Puoi mangiare quello che ti pare. Solo che sia nelle trattorie, sia nei matrimoni, lo devi chiedere. E la gente ti guarda sempre un po' strano, no? Invece l'idea dell'all you can eat è proprio primordiale, cioè è più sincera. Pure più rischiosa, se vuoi. Parlando con Simona prima di cominciare a mangiare, mi sono ricordato esattamente com'era vivere con lei. Mi sono tornati in mente tutti i maglioncini di cashmere, quelli che lei mi regalava perché pensava che io potessi prendere freddo, ad esempio. E mi ricordo benissimo i colori di quei maglioncini: beige, giallo, lilla, azzurro chiaro. Ecco, Simona era così. Simona era esattamente come l'avevo lasciata qualche mese prima. Color pastello. Con lo stesso medesimo sorriso, sempre stampato sulla faccia, come se andasse sempre tutto bene. Una cosa che mi mandava ai matti, ma che era tremendamente rassicurante. Dico, ma è facile andare quando non sai guidare. Dico, ma è triste il Natale senza mio padre. Na, na, na, na. Simona non è cambiata e secondo me non si è accorta che invece io sì. Non si è accorta che io sono un'altra persona, cioè non sono né migliore né peggiore, sono semplicemente cambiato. E io morivo dalla voglia di sentirle dire qualcosa di nuovo. Quindi continuavo a farle domande sul lavoro, sulle amicizie, sugli amori, su qualsiasi cosa che nella sua vita potesse avere subito un cambiamento. Ma lei, niente. Stavamo mangiando sushi a nastro come fossero patatine e sapevo che l'avrei pagata cara poi di notte, cercando di digerire, perché quello è il problema dell'all you can eat, che non puoi fare a meno di pensare a quando sarà arrivato il momento in cui il valore di quello che hai mangiato avrà superato i soldi che hai speso. E quel limite sembra sempre lontanissimo. E in più, se lo superi, ti viene la tentazione di andare avanti, come se questo ti consentisse di avere dei soldi indietro, oppure di poter avere una qualche forma di credito da spendere da qualche parte il giorno dopo. È irrazionale, lo so, ma non credo che prenda solo me. È un po' come quando hai pagato per vedere un film, no? E dopo 20 minuti capisci che fa schifo e che continuerà a fare schifo. E invece che uscire e riprenderti l'ora e mezza di vita che ti stanno per rubare, tu rimani seduto lì e dici no, ho pagato e me lo sciroppo fino in fondo, che poi non si sa mai, no? Può sempre migliorare. Ecco, l'all you can eat è così. A un certo punto le ho fatto una domanda diretta e le ho chiesto: Simona, scusami, ma hai fatto qualcosa di nuovo di recente? Qualcosa che non avevi fatto prima? O qualche cambiamento? Non so, o magari ce l'hai in programma. E lì Simona mi ha stupito, perché lei non ha battuto ciglio e mi ha risposto: ho ridipinto la casa. Che era fantastico per me, ma non bastava, perché casa sua aveva le pareti bianche e quindi poteva anche solo significare che aveva dato una bella imbiancata di nuovo. Le ho chiesto di che colore avesse fatto le pareti e lei ha tirato fuori dalla borsa un libro gigantesco, tutto scritto in inglese, pieno di fotografie di Pantone. Era la presentazione di un produttore londinese molto chic che lei aveva trovato attraverso delle amiche. Io ero sorpreso ed ero anche felice. Le ho chiesto di mostrarmi quelli che aveva scelto e ogni volta che lei diceva, che ne so, vedi, ho preso questo, questo si chiama Manor House Grey, e a me veniva da dire sì, vabbè, ma è grigio. Oppure se lei mi diceva questo Oval Room Blue, e a me sembrava semplicemente blu. Però ci siamo divertiti, a parte il momento in cui mi ha detto quanto aveva pagato la vernice. Una follia. Non vi sto nemmeno a dire la cifra. Però mi faceva piacere che avesse avuto un colpo di testa, che avesse deciso un cambiamento così epocale. E vi assicuro che per una come lei lo è. Abbiamo continuato a mangiare piatti che contengono riso e pesce e alghe, che poi le alghe... Adesso non so se è peggio pensare che arrivino da Marghera o direttamente dal Giappone. Poi a un certo momento della serata Simona mi ha detto che secondo lei avevo la voce un po' bassa, che è un po' anche vero perché in questi giorni ho un po' di mal di gola, ma non pensavo che se ne fosse accorta. E allora dalla stessa borsa di prima ha tirato fuori un piccolo sacchetto di carta molto elegante e me l'ha dato. Io quel tipo di sacchetto lo conoscevo e quando l'ho aperto non mi sono sorpreso. Matteo, hai mal di gola perché non ti copri abbastanza. Questa volta il maglioncino di cashmere era un color panna, che significava che io non l'avrei messo manco se avessi deciso di farmi ribattezzare una seconda volta. È stata dolcissima e sono stato contento di averla vista. E poi ci siamo salutati, da buoni amici. Sì, penso proprio che sia una bella idea quella di mantenere vivi i ricordi, incontrando le stesse persone o andando negli stessi posti di mesi o anni prima. E allora oggi ho anche pensato che un weekend senza partite di calcio, secondo me, va speso bene. E ho ripensato a quando qualche mese fa, ristrutturando la mia nuova casa, ho trovato una vecchia lettera e mi sono ricordato della storia di Agatha. E in un attimo l'ho deciso. Domani si va a Procida. Le vent l'emportera. 800 24 0024 per chiamare in diretta, oppure 349 238 6666. Allora, vi racconto alcune delle aspettative. Vabbè, in ufficio mi chiamano problem solving. Dicono che snocciola la pratica edilizia dai punti di vista irrisolvibili e invisibili. Gianluca, questa te la porti dietro tutta la vita. Fabrizio mi dice: Maggie e Lisa si aspettano tutte le sere che le porti a fare pipì al fiume, così rincorrono le mini lepri. Spero che non siano tue figlie, Maggie e Lisa, Fabrizio. Nel senso che possono rincorrere le mini lepri, però fare la pipì al fiume, cioè, vale tutto poi. Io sono quella che organizza tutto tra amici: gite, cene, viaggi, compleanni. Se non lo faccio io, praticamente non si fa nulla. Martina, Francesca, sono stata promossa sul campo aggiustatrice di qualsiasi cosa non funzioni in casa e in ufficio. E poi Stefano, però qua si parlava di promesse tacite, no? Cioè quelle che nascono dall'abitudine, non quelle che se tu dici a tua zia che la porti all'IKEA, no? Ho promesso a mia zia di portarla all'IKEA. Ho rimandato per mesi e se non arriva un asteroide domani, mi tocca andare. Se glielo cioè, se tu proprio glielo dici, però è un po' più complicato poi evadere quelle forme di promesse. Bravo marito, bravo amante, le aspettative della tua donna possono distruggerti. Questi sono chiaramente matrimoni che stanno lentamente andando allo sfascio. Sono insegnante di religione, da me si aspettano un comportamento da santo, ma sono una persona normale, come tutti. Stefano, però sai, io mi ricordo il mio insegnante di religione. Non era un santo. A parte che la mia insegnante di religione era una donna. Si chiamava Suor Diletta. Le abbiamo fatto uno scherzo a Suor Diletta. Però credo che non sia il caso di dirlo adesso. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao, e sto qui. Nella foto di oggi siamo in una stalla. In una stalla con delle vacche. Si vede la parte posteriore, direi il quarto delle vacche, nel senso che si vede il sedere. Il resto che si vede di fronte alle vacche sono dei personaggi abbastanza inquietanti. Sembra, come si chiama quel film? Credo 28 giorni dopo, quello in cui c'era sto tizio di Danny Boyle. Sì, c'era sto tizio che entrava in coma, si svegliava, il mondo era cambiato, era mezzo distrutto. E avevano addosso queste, per evitare di prendere il virus, questa specie di tute di plastica. Ecco, questi sono ragazzi per lo più, avranno attorno ai 25 anni. Hanno addosso come dei sacchi per la spazzatura azzurrati o verdi. Hanno degli stivali, ma non capisco esattamente cosa stiano facendo con queste vacche. Duccio Panzani, 38 anni, ricercatore universitario. Passo le giornate in stalla tra vacche, cavalli, asini e studenti di veterinaria. Io sono qui. Ecco cosa facevano. Fanno i ricercatori. Ora, andate a vedere questa foto, radio24.it sulla pagina di Io sono qui. Se riuscite a capire esattamente che cosa fa, anzi facciamo così, Viola che mi sta sentendo a Milano sicuramente ha questa fotografia sotto mano. Viola, caricala sul profilo Facebook questa fotografia, così tutti quanti possono vederla e capire esattamente che cosa stanno facendo questi ricercatori con queste vacche. 800 24 0024, 349 238 6666. I miei figli si aspettano sempre che io faccia loro dei racconti sulle mie esperienze di quando ero volontario in ambulanza ormai 10 anni fa, ma li ho esauriti tutti e li riciclo. Guarda, funziona sempre, inventateli piuttosto. Se loro si aspettano dei racconti, tu non puoi fugare questa aspettativa, inventati dei racconti. Se c'è qualche aspettativa che avete creato negli altri che vi pesa particolarmente, perché in qualche modo gli altri ormai sono convinti che voi siate quella cosa lì, che voi siate sempre divertenti, che voi siate sempre saggi, che voi siate sempre quelli più forti alla PlayStation, oggi è la puntata per voi. 800 24 0024. È il caso ad esempio di Roberto da Pistoia. Pronto Roberto? Ciao Matteo. Ciao, buon grazie pomeriggio. Buon pomeriggio a te, grazie per essere Roberto, qui Roberto. E purtroppo sono qui. Benissimo, sento che c'hai una strana eco. Dove sei? In uno scantinato? Sono nel mio ufficio che è enorme. Aspetta che cambio stanza. Ma figurati, stai lì, guarda, l'effetto sottoscala mi piace moltissimo. Allora, tu hai sempre fatto lavori commerciali, lavori in cui ti chiedevano dei risultati di fatturato, giusto? Quindi... Esattamente. Che lavoro fai adesso? Il commerciale, per l'appunto, per il la commerciale... Toscana. In che cosa? Un settore di logistica e di trasporti praticamente, e anche qui come tutti i lavori commerciali ovviamente devi rendere di conto sulla base di quanto vendi, ecco. Quanto è stato il tuo record di fatturato? Ma Dunque, da qui ci sono da poco tempo, perché prima lavoravo in un altro settore che era quello assicurativo e il mio record fu il 200%, ma di quello che era previsto come budget, ma è stato praticamente un caso, ecco. E scusa, il 200%? Sì, ti viene assegnato un budget, lo devi raggiungere. Sì, sì, no, chiaro, ma in termini... Ma in termini di soldi quanto era? Non te lo ricordo. Allora, a suo tempo dovevano essere una raccolta, si parla di premi assicurativi, di circa 30.000 euro, io credo averne fatto il doppio, quindi 60, okay. Però tu in realtà vorresti fare il batterista heavy metal. Sì, beh, questo era il sogno che avevo quando ero ragazzino, il batterista heavy metal lo faccio tuttora, ma ovviamente è solo un hobby che coltivo da circa una ventina di anni, in qualche maniera comunque l'ho fatto. Ma come si chiama il tuo gruppo? Lo possiamo dire, vabbè, facciamo pubblicità, dai, non ci conosce nessuno. Ma guardalo, ma assolutamente facciamola, di proposito. Allora, si chiama Punition Babic, all'incontrario di kebab, quindi Punition Babic, quindi andate su MySpace e scaricate. Ah, proprio, siete su MySpace ufficialmente. Senti. Dimmi un nome di un vostro pezzo. Allora, il nostro pezzo, io ti posso dire il secondo, quello più ignorante, è The Fist, il pugno, praticamente, sì. Senti, Roberto, e poi ti lascio andare perché il metal ha sempre un grande fascino su di me, ma come fa a sopravvivere il metal? Voglio dire, quali sono i canali per cui una persona sana, di robusta costituzione, oggi può arrivare ad ascoltare metal? Diciamo che devo dire è un genere che mantiene sempre la sua fisionomia, non si è, diciamo, come dire, inquinato. Anche sì, ma dove vado a trovarlo? Dove lo trovo? A parte su YouTube, ma ci sono delle riviste, ci sono dei programmi specializzati. Certo. Allora, io faccio un programma a una radio di heavy metal, quindi siamo anche colleghi, questo uno può anche ascoltare. Dimmi come si chiama il tuo programma, poi ti lascio andare. Il mio programma si chiama Stop, con punto esclamativo. Va bene, Roberto, ti ringrazio moltissimo, ti lascio tornare ai tuoi budget, fai una buona giornata. Ciao. Oh, grazie. Ciao. Il mio stile di vita regolare fa sì che tutti si aspettino da me che io sia monotono, e se faccio qualcosa per rompere la routine tutti si stupiscono. Jacopo, che brutta roba. Terrore dei mariti, qui ancora la solita questione dei mariti e delle mogli, credere che le mogli si aspettino che saremo per sempre amanti straordinarie. No, però non l'ho capito, cioè il terrore dei mariti è, e pensare, in realtà probabilmente non è così, cioè probabilmente le mogli non si aspettano che i mariti siano degli amanti. Boh, non lo so, se c'è un marito all'ascolto me lo dica, non ci sto più capendo niente. Andiamo da Silvio, provincia di Cuneo. Pronto Silvio? Ciao. Ciao, buongiorno. Senti, tu hai questa condanna che ha a che fare il cioccolataio. Sì, una condanna, l'ho scelto che facevo il bambino, che ero bambino che volevo fare il cioccolatiere. Però ho percorso tutta la strada sempre mettendo il cioccolato alla base di tutto e ancora oggi. Ma la cosa più... Com'è che finisci a fare il cioccolataio, Silvio? Scusa, vabbè, a parte che sei una provincia di Cuneo. Io avevo 5 anni, ho detto mio papà da grande farò il cioccolatiere. Mio papà faceva l'elettricista, quindi... Tra l'altro si dice cioccolatiere, non cioccolataio. Sì, io faccio cioccolatiere, certo, cioccolataio non l'ho detto io. No, infatti, perdonami, l'ho detto io, cioccolataio. No, perché uno è un... ere è la desinenza di una professione, mentre invece aio di un lavoro, no? Il cioccolataio è uno che occupa le sue 7 ore di lavoro, e il cioccolatiere è quello che lo fa come arte e professione, cioè il cioccolataio è quello che lavora in un'industria, il cioccolatiere è quell'artigiano che si fa il cioccolato. Tu quindi sei un artigiano, hai un laboratorio tutto tuo, hai delle persone che lavorano? Sì, io sono un cioccolatiere artigiano, sono a Vicoforte in provincia di Cuneo e niente, mi sono creato questa condanna, ma diciamo che l'ho anche voluta io, nel senso che tutte le volte che andavo a trovare degli amici o andavo in una riunione che fosse sindacale o che fosse di qualsiasi cosa, portavo un sacchetto di gianduiotti, di cioccolatini, un po' per farmi conoscere, no? Ovviamente c'era il tuo biglietto da visita, Silvio. È il mio biglietto da visita. Poi però mi sono accorto che ieri sono stato a Roma per un convegno, sì, non ho portato il fatidico sacchetto di cioccolatini perché non so lì da voi, ma qua da me c'è 25 gradi e rischio di portare dei gianduiotti da bere con la cannuccia, no? Senti Silvio, scusa, dimmi che tipo di cioccolato fai, cioè gianduiotti l'abbiamo capito. Beh, io ho fatto la prima collezione di cioccolati del mondo, sono 47 cioccolati provenienti, fatti con cacao provenienti da tutto il mondo. E quindi io giro il mondo a cercare i migliori cacao, dall'estrema Asia all'America, all'Africa, scegliendo i migliori cacao che poi tosto. E adesso, ma tu poi, perdonami, vendi solo al dettaglio o vendi a altri produttori? No, io vendo prevalentemente al dettaglio, poi ho un po' di esportazione, soprattutto in Giappone, Stati Uniti. Quanto si fattura facendo il cioccolatiere? Ma guarda, allora, io ho una grande azienda di piccole dimensioni, amo dire definirla in questo modo, perché dire che è una piccola azienda è sbagliato. Fatturiamo circa 1 milione di euro, siamo 8 persone a lavorare. Sei in Confindustria? No, io sono un piccolo artigiano. No, l'hai detto come se fosse una condanna. Silvio, non per una condanna, ma il fatto che siamo proprio un'azienda, certo, di piccole dimensioni. Ecco. Silvio, portaci, se vieni il 23 di giugno, ovviamente portaci dei cioccolatini alla serata di Io Sono Qui. Ma ve l'ha già chiesto anche la telefonista, vedi che ti pareva, vedi che allora hai proprio ragione. Grazie mille, Silvio, buona giornata. Sono contento. Ciao, grazie mille. Chiudiamo la puntata di oggi con una cosa un po' diversa dal solito. Non è il racconto che vi racconta, che comunque vi chiedo di continuare a mandare a Io Sono Qui, @radio24.it. Questo è un racconto, poi vi spiego il perché, di Philip Roth, che si intitola Il seno. Cominciò stranamente, con un lieve, sporadico formicolio all'inguine. Durante quella prima settimana mi rinchiudevo diverse volte al giorno nel gabinetto per uomini adiacente all'ufficio della mia facoltà di scienze umanistiche. Mi tiravo giù i pantaloni, ma per quanto mi esaminassi scrupolosamente, non vedevo niente fuori dal comune. Con riluttanza decisi di ignorare la cosa. Ero stato per tutta la vita un ipocondriaco super appassionato e attento a ogni variazione della temperatura corporea, a ogni regolarità fisiologica. Ma proprio per questo, l'uomo ragionevole che si nascondeva in me da parecchio tempo non riusciva più a prendere seriamente tutti i miei sintomi rivelatori. Ero istintivamente portato a identificare quel formicolio all'inguine come qualche disturbo nervoso del tipo fuoco di Sant'Antonio o peggio, ovviamente. Contemporaneamente però capivo che, come sempre, si trattava di una bolla d'aria. Ma quella volta sbagliavo. C'era qualcosa davvero. A una settimana di distanza mi accorsi che la pelle sotto i peli del pube si era fatta rosata. Questo è solo un estratto del racconto di Philip Roth che si intitola Il seno e che trovate domenica con Il Sole 24 Ore in edicola, perché dalla scorsa domenica per tutte le prossime, ogni domenica comprando Il Sole 24 Ore domenica, ho ripetuto domenica credo 40 volte nel giro di 2 secondi, è record del mondo. Con soli 2 euro vi portate a casa il quotidiano e un racconto di uno dei grandi della lettura del mondo, Philip Roth, Hemingway, Kafka, Amerino Tomb. Ripeto, con solo 2 euro. Questo racconto che esce domenica si chiama Il seno, l'autore è Philip Roth. Io ringrazio tutti perché domani non lo so, ma oggi io sono qui.